Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Benvenuti, buonasera, buon pomeriggio, sono le 16.34, Luca Tremolada al microfono. Oggi parliamo di banda larga, di una banda larga insomma un po' diversa dal solito, non quella che passa per i cavi, non quella che passa sotto le nostre cavi, sotto le nostre case, ma quella insomma che cala dal cielo, per usare un po' un'immagine poetica, vero Alessandro Longo? Sì, infatti la poesia magari si perde quando non riesco a navigare abbastanza veloce, ma anche in questo caso possiamo dire che cose migliorano, infatti è il tema della nostra giornata. Infatti il tema della nostra giornata, vogliamo capire insomma che cosa si sta muovendo sul fronte del Digital Divide, andremo a capire da uno dei più grandi operatori mondiali di TLC e di connessione satellitare, Eutelsat, che cosa ci riserva al futuro. Abbiamo con noi il presidente di Eutelsat, Giuliano Beretta. Buongiorno. Buongiorno. E però prima di entrare insomma con le mani nelle connessioni satellitari, parliamo con le news, anzi mandiamo le news. Lo sciopero contro Facebook è finito con un buco nell'acqua. Solo 30.000 hanno aderito all'appello del Quit Facebook Day, che invitava a cancellare in massa il proprio profilo il 31 maggio. Chissà però, forse la battaglia contro il principale social network si misurerà sul lungo periodo, a forza di iniziative e di pressioni di vari soggetti istituzionali che chiedono un maggior rispetto della privacy. Dopo oltre 3 anni di ricerche e miliardi di particelle in viaggio da una parte all'altra delle Alpi, nei laboratori nazionali del Gran Sasso, dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, è stata osservata per la prima volta al mondo una metamorfosi del neutrino in modo diretto. La trasformazione cioè di un neutrino in un altro. Questo risultato indicherebbe che i neutrini hanno una massa e che possono oscillare. La scoperta da un lato spiegherebbe perché solo pochi neutrini prodotti dal Sole arrivano sulla Terra e dall'altro metterebbe in condizione il modello standard della fisica che prevede neutrini senza massa. Anche Asus si unirà all'arena dei tablet, ora infiammata dall'arrivo dell'iPad di Apple in Italia. Asus ha appena annunciato che lancerà il tablet iPad, infatti, entro marzo 2010, con Windows 7. Stesso sistema anche in un futuro tablet di MSI. In gara anche Android, il sistema di Google. Sarà usato da tablet di Dell e Acer. L'abbiamo letto prima delle news, Giuliano Beretta, tra l'altro oltre ad essere presidente del consiglio di amministrazione di Eutelsat, quest'anno ha ricevuto il premio di Arthur Clarke, dell'Arthur Cloud Foundation, cioè il tra l'altro Arthur Clarke, scrittore di fantascienza, precursore dell'era delle comunicazioni via satellite, nel senso che è stato il primo a immaginarsi che un satellite potesse essere usato per le telecomunicazioni, dico bene? Sì. Ha scoperto quella che esisteva in natura naturalmente, che è l'orbita geostazionaria, dove i satelliti girano con la stessa velocità della Terra e quindi appaiono sempre fermi nel cielo. Quindi questa è stata una grande innovazione, perché altrimenti tutte le nostre antenne dovrebbero muoversi, mentre invece, come vediamo, sono fisse sui tetti delle case. Tra l'altro lei è anche un appassionato di fantascienza, se non sbaglio. Assolutamente. È stato un onore e un piacere di conoscere Arthur Clarke. E tra l'altro uno dei suoi pallini, prima di entrare un po' nel metodo di quello che è l'internet dei cieli, è anche il fatto che è un concetto difficile insomma da mandare giù, ma il satellite quanto di più ecologico ci possa essere? Questo è quanto sostiene lei, ce lo può spiegare? Sì, il satellite in effetti è l'unico mezzo di trasmissione che funziona solamente a energia solare, perché una volta nello spazio a 36.000 chilometri l'unica energia che può captare è quella grazie ai suoi pannelli. Però quando lo si spara in aria lì si consuma, come? Certo, si consuma, ma sono solamente con Ariane 109 secondi in cui si produce del CO2, e questo CO2 è equivalente a quello che è prodotto da una macchina di media cilindrata in un anno. Da una macchina di media cilindrata? Di media cilindrata, sì. L'equivalente, cioè il satellite produce di ISO per gli anni della vita che ha, naturalmente, l'equivalente di una macchina di media cilindrata, quindi un'automobile. E qua non è certo un consumatore o un produttore di CO2, ne produce tante tutte insieme. Certo, in una volta sola, in una volta. Una volta lanciato, ovviamente ammortizzando questo in 15 anni di vita, si trova che molto poco. Allora, tra l'altro, poi una curiosità, ma poi quando finisce il suo ciclo di vita resta lì? Vabbè, noi non siamo molto attenti, ci sono delle leggi internazionali, perché ovviamente non si possono lasciare dei pezzi in orbita che potrebbero ostacolare. Successivamente si mandano in una cosiddetta, diciamo, cimitero dei satelliti, al di là dell'orbita geostazionaria. Quindi viene conservato del carburante per poter fare un ultimo carburante che serve solo per la stabilizzazione, non è un carburante. E poi stanno lì tutta la vita? E poi stanno lì tutta la vita, però fuori dell'orbita geostazionaria, dove potrebbero dare fastidio ad altri satelliti di telecomunicazioni. Va bene, allora dottore, un secondo, Alessandro Longo ha preparato una scheda per fare un po' il punto sull'internet, sulla banda larga che arriva dal satellite. L'ascoltiamo insieme e poi torniamo a discuterne. Gli operatori satellitari si stanno sforzando al massimo per togliersi di dosso la fama di banda larga di serie B o, per essere più impietosi, serie C2 con rischio retrocessione. Stanno migliorando infatti offerte dei provider italiani che utilizzano quasi tutti la piattaforma Two-Way di Eutelsat. Tra gli ultimi arrivati anche Tiscali. Erano anni che un operatore noto al grande pubblico non offriva connessioni satellitari dopo la scomparsa di AliceSat di Telecom. Adesso il solo miglioramento evidente è nelle velocità massime raggiungibili con il satellite, fino a 3,6 MB per secondo in download e 512 KB per secondo in upload. Restano gli altri problemi: alti costi iniziali, da 400 a 600 euro circa, canoni doppi rispetto alle ADSL da 7 megabit e grossi limiti nella quantità di dati trasferibili in un mese a velocità banda larga. Non è finita qui, però. Le offerte satellitari aspirano ancora a essere più simili a quelle ADSL, grazie a nuovi satelliti che arriveranno tra alcuni mesi. Manterranno le promesse? Allora, Alessandro Longo si chiede giustamente: manterranno le promesse? Ma perché, Alessandro, hai dei dubbi? Per prima cosa, per correttezza, sono ovviamente 3,6 megabit al secondo, sarebbe troppo bello se fossero megabyte al secondo. Ma i dubbi vengono dall'esperienza, cioè dal pregresso. Le connessioni banda larga satellitari sono una pessima fama, perché per vari motivi, perché c'è poca banda nel cielo rispetto a quella che c'è sulla Terra, quindi la quantità di dati di banda disponibile all'utente pure è limitata, anche la latenza è elevata, perché passa del tempo perché il segnale arrivi da Terra al satellite, quindi c'è un rallentamento nella navigazione. Ora, i dubbi nascono insomma dall'esperienza passata, però ci sono dei segnali positivi che io qui elenco. La velocità è quasi raddoppiata, quella massima dichiarata dagli operatori, è quasi raddoppiata in un anno, arrivata a 3,6 megabit al secondo. I prezzi sono più o meno stabili, però l'idea è che adesso dovrebbero migliorare anche sia i prezzi sia ancora di più le bande grazie a nuovi. Quindi Alessandro, visto che abbiamo Giuliano Beretta, quindi si sta lavorando molto sulle tecnologie, il passo adesso qual è? Quello della commercializzazione di nuove offerte o del lancio di nuovi satelliti? Che cos'è che sta cambiando adesso? Ci sono tutti e due questi aspetti. Il primo è il lancio di nuove offerte che abbiamo fatto anche recentemente, anche in Italia tra l'altro, con alcuni distributori italiani, in cui queste nuove offerte prevedono che il servizio sarà è già oggi a 35 euro al mese, quindi presto si andrà a 30 euro al mese nel futuro, per cui 30 euro al mese è equivalente a quello che costa oggi la DSL. La velocità è quella che è stata detta, 3,6 megabit, mi piace la precisione, al secondo, l'uplink 512 va benissimo, e l'altra novità è che già il costo dei terminali è diminuito. E oggi si possono già comprare i terminali a meno di $300 e addirittura ci sono delle offerte sul mercato a $120. Ma Beretta, ma è un business conveniente questo dell'internet via satellite? Cioè anche... Noi siamo un business conveniente? Il business oggi è un business di lancio, naturalmente, perché è qui la novità più grossa. Tra pochi mesi, alla fine dell'anno, prima della fine dell'anno, lanceremo il più grande satellite che sia mai stato costruito al mondo, totalmente dedicato all'internet via satellite. Quindi un satellite che avrà una capacità estremamente elevata, cioè potrà permettere di avere l'equivalente del doppio della capacità trasportabile oggi da tutta la flotta di Eutelsat, ma naturalmente dedicata all'internet, non a trasmissione di televisione. E permetterà, grazie a questo aumento di capacità e con un costo che è aumentato, ma sempre diciamo contenuto rispetto a quello di averne 10 di satelliti, il suo costo per bit a noi apparirà circa un ordine di grandezza inferiore a quello attuale, quindi da 8 a 10 volte inferiore al costo attuale. Questo ci permetterà non di diminuire le tariffe, ma di aumentare ulteriormente la velocità. Allora, la velocità a 10 megabit al secondo. Allora, 16:46 minuti, siamo in collegamento, è il caso di dirlo, con Giuliano Beretta, presidente di Eutelsat. Siamo in collegamento anche con Alessandro Longo. Se sei d'accordo, Alessandro, io lancerei la scheda sul Digital Divide per capire un po' com'è la situazione in Italia e capire anche se in questa situazione come si può inserire un'offerta satellitare. Sei d'accordo? Vai, vai. Andiamo. Il Digital Divide è ancora un problema tutt'altro che risolto in Italia e nell'ultimo anno i passi avanti sono stati pochini. Ancora il 13% degli italiani non è coperto da banda larga, termine con cui ora si intende poter navigare almeno a 2 megabit al secondo. Il 96% è in teoria coperto da ADSL, ma soltanto l'87% può attivarla davvero e navigare ad almeno 2 megabit. Il 95% è coperto da HSPA, evoluzione dell'UMTS, connessioni che però in media vanno a 1-2 mega, quindi sono ancora poco banda larga. Nessuna è inoltre davvero flat, cioè senza limiti, come le ADSL. Ci si può consolare con connessioni wireless alternative, la cui copertura è in crescita. Hyperlan e WiMAX offrono prestazioni simili a quelle dell'ADSL, ma sono molto meno diffuse. L'Hyperlan copre il 15% degli italiani e il WiMAX il 5%, secondo l'osservatorio Between. La sfida nei prossimi mesi sarà riunire tutte le forze di vari soggetti pubblici e privati con un mix di tecnologie per eliminare il Digital Divide. L'obiettivo è riuscirci per il 2012. Allora, Giuliano Beretta, ma voi concorrete anche voi per l'Italia oppure, parliamoci chiaro, il vostro, cioè il satellite diventa uno strumento interessante per altre aree del mondo? Allora, noi siamo molto presenti, particolarmente in Europa, e riteniamo che l'Italia sia certamente un obiettivo estremamente interessante. Come dicevo recentemente a un vostro collega, Vizza, no? Il satellite vi permette di avere l'internet anche sulla cima del Matterhorn, del Cervino, quindi se volete andare a abitare lì lo avrete, quindi vuol dire è l'ubiquità che offre il satellite. Cioè, non è il momento stesso che il satellite è lanciato, tutta l'area di copertura è già servita, basta procurare sull'antenna un terminale, non c'è bisogno di fare altri investimenti e altre installazioni complicate, quindi è lo stesso che può servire, equivalente a quello che può servire per la televisione digitale satellitare di oggi. Quindi questo è il suo vantaggio, l'ubiquità è fatto della, diciamo, della capacità di installarlo rapidamente. Sono d'accordo che fino al passato la velocità non era elevata, ma come avete visto è già aumentata recentemente e aumenterà in maniera drammatica col lancio di questo nuovo satellite che è un gioiello per l'Europa, perché per la prima volta in Europa siamo più avanti degli Stati Uniti. E dell'est della Cina e degli altri paesi dell'est, del Giappone, perché lanceremo un satellite che permetterà di avere effettivamente l'internet fino a 10 megabit a un prezzo di circa 30 euro al mese. Alessandro, quali sono le tecnologie che secondo te stanno? Abbiamo visto dalla tua scheda, insomma, che c'è ancora un 13% di italiani che non ha la possibilità di collegarsi in banda larga. E quando parliamo di banda larga intendiamo almeno 2 megabit, per cui insomma siamo nella soglia bassa. I satelliti è sicuramente una delle tecnologie che concorrono. Altre tecnologie? Altre tecnologie da tenere sotto controllo sono quelle wireless alternative, cioè come ho scritto, come ho detto, WiMAX e Hyperlan. Sono come ho scritto purtroppo poco diffuse, però sono pressoché analoghe alla DSL, quindi permettono di navigare in banda larga senza compromessi, anche i prezzi sono più o meno gli stessi. Le velocità sono come quelle di una DSL di medio-basso livello, in realtà non ci sono ancora a 20 megabit l'Hyperlan o il WiMAX, però ecco, bisogna accontentarsi quando ci si trova in digital divide. E se non c'è proprio niente, sì, il satellite, quindi secondo me il satellite è un extrema ratio, resta extrema ratio, però migliore. Ricordiamo che 30 euro al mese non è il canone di una DSL, è quasi il doppio di un canone DSL, che adesso è a 19,95 euro con 7 megabit, quindi comunque è un sacrificio rispetto alla DSL. Inoltre le offerte satellitari attuali, non so quelle dell'anno prossimo, hanno forti limiti sulla quantità di dati che l'utente può trasferire in un mese a velocità banda larga. Oltre i 4 gigabyte al mese la velocità viene ridotta nelle offerte di fascia bassa, quindi comunque ci sono parecchi limiti. Questo però in Occidente, nel senso che poi bisogna anche distinguere i vari territori. Infatti volevo anche capire con Giuliano Beretta quali sono le strategie di un operatore satellitare per ciò che non è Occidente, cioè non i paesi ricchi. Lì ha un senso utilizzare il satellite per internet o per altri servizi? Sì, certo, lì è fortemente utilizzato. Tanto è vero che noi abbiamo fatto un accordo recentemente per fare un satellite assieme al Qatar per poter servire per esempio tutto il Medio Oriente con delle velocità elevate, sempre nella banda larga, che seguirà la nostra esperienza con il famoso satellite di cui parlavo un attimo fa, che si chiama CARSAT. Ecco, quanto costerà questo lancio? Visto che l'abbiamo citato già 2 volte, quanto costerà il lancio di un satellite di questo tipo? Un satellite come il CARSAT, che noi abbiamo totalmente finanziato, quindi non abbiamo chiesto soldi a nessuno. Vorremmo che magari fossero aiutati gli utilizzatori che dovranno comprarsi l'antenna e il terminale, magari nelle aree meno favorite. Questo sarebbe una cosa molto importante, che d'altronde è prevista anche dalla Commissione europea con gli aiuti che vengono lanciati in diversi paesi, e permetterebbe anche di creare continuare il lavoro degli installatori in un momento di crisi, questo è molto importante. È un sistema molto democratico, perché viene utilizzato da chi vuole utilizzare, chi non vuole utilizzare non lo utilizza, cioè non è che che la rete debba coprire tutti, copre tutti quelli che si forniscono l'antenna. Penso che vi daremo delle grosse sorprese quando sarà lanciato il CARSAT. Un'idea di quanto è costato, che siamo proprio in chiusura? 350 milioni circa. E quanto resterà in orbita? 15 anni. Giuliano Beretta, io la ringrazio, il nostro tempo è scaduto, ringrazio anche Alessandro Longo, l'appuntamento per domani alle 16.30, grazie a tutti. Nova Lab 24. Nova Lab 24.